A bordo campo. Sudafrica 2010. Nel cuore del mondiale. Le sentite in sottofondo, musiche sudafricane, musiche tipiche del Sudafrica, perché quelli che stanno per arrivare saranno anche i mondiali vetrina di questo paese, in cui il Sudafrica si metterà in mostra sotto gli occhi del mondo anche come meta capace di attirare il turismo internazionale. E proprio del turismo sudafricano parliamo oggi, un argomento del resto caldo in vista della Coppa del Mondo 2010. Basti pensare alle bellezze dei tanti parchi naturali sudafricani, il fascino di città come Johannesburg, Durban, Città del Capo, ma anche insomma i rischi e i pericoli che da una meta così esotica possono derivare. Ebbene, proprio pochi giorni fa abbiamo incontrato Martinus van Schalwijk, che è il ministro per il turismo del Sudafrica, e con lui abbiamo fatto un quadro della situazione quando ormai manca davvero pochissimo al calcio d'inizio di Sudafrica 2010. Sentiamo cosa ci ha detto. La gente in Sudafrica è veramente entusiasta. Sarà la prima volta nella storia che uno stato del continente africano ospiterà la Coppa del Mondo di calcio. In passato abbiamo ospitato i mondiali di rugby e quelli di cricket, ma la Coppa del Mondo di calcio è speciale. La gente vuole davvero che sia un successo. Dal punto di vista turistico, quali numeri vi aspettate e quale impatto, anche dal punto di vista economico, della Coppa del Mondo? È una grande opportunità per far crescere ulteriormente il nostro turismo. Siamo già una meta turistica piuttosto popolare, con circa 10 milioni di visitatori all'anno, ma è chiaro che la Coppa del Mondo di calcio è un evento unico. Solo per i mesi di giugno e luglio ci aspettiamo circa 450.000 visitatori che verranno nel nostro paese proprio per vedere le partite del Mondiale. Senza contare che l'evento sarà visto da miliardi di persone nel mondo. Una grande occasione per noi. E rispetto alle aspettative del turismo italiano, quali numeri prevedete, cosa vi aspettate? L'Italia è un paese molto importante per noi. Abbiamo avuto un incremento di circa l'8% dei turisti italiani lo scorso anno, superando i 50.000 visitatori. Numeri che contiamo di aumentare con la Coppa del Mondo, considerando anche che la vendita di biglietti è ancora in corso. Siamo ottimisti su questo specifico mercato. Quali sono i punti critici ancora da risolvere sulla strada verso il Mondiale? In particolare, gli europei sono molto preoccupati dal tema sicurezza. In terms of our preparation, everything is on schedule. Per quanto riguarda i preparativi, posso dire che siamo pronti. 8 dei 10 stadi sono completamente finiti, mentre per gli altri 2 stiamo completando i lavori nelle aree circostanti gli impianti. Abbiamo ricevuto l'ok degli ispettori della FIFA per quanto riguarda il sistema stradale e ferroviario. Per la sicurezza avremo circa 190.000 poliziotti per le strade durante il Mondiale, ben preparati ed equipaggiati. Ogni anno abbiamo 10 milioni di turisti stranieri e ogni anno abbiamo una sorta di voto di fiducia da parte dei tanti che tornano a visitarci. Abbiamo recentemente ospitato il tour dei British Lions di rugby, 40.000 tifosi, nessun incidente. Non siamo diversi da ogni altra parte del mondo. Se si visitano Washington o Londra o Parigi, ci sono alcune aree più sicure e altre meno. E da noi è lo stesso. La Coppa del Mondo per il Sudafrica è più un'opportunità o un esame? È un'opportunità meravigliosa per noi. Siamo onorati dall'essere la prima nazione africana a ospitare la Coppa del Mondo, ma più di questo vediamo la possibilità di creare opportunità di crescita per la nostra gente e la nostra economia. Come governo abbiamo investito 1 miliardo di euro, altri 2 miliardi di euro sono stati investiti dal settore privato. Il paese ha ricevuto una spinta sotto il profilo infrastrutturale e lo stesso vale per il turismo. Siamo uno dei paesi con la più alta percentuale al mondo di turisti che tornano a visitarci. Siamo sicuri che chi verrà per la Coppa poi tornerà a fare turismo da noi. In alcune aree del paese fino a pochi mesi fa c'erano dei problemi in termini di ricettività, ad esempio a Port Elizabeth le autorità locali ci hanno detto forse ci saranno poche camere, pochi spazi per tutti i turisti. Da questo punto di vista quali soluzioni avete messo in campo? Sono stati risolti questi problemi? We have enough accommodation in the country, our government and FIFA match. Abbiamo camere a sufficienza per tutti nel paese. Abbiamo oltre 200.000 camere a disposizione, di cui oltre la metà di alta qualità. Siamo esattamente nella stessa situazione di Germania 2006. Prende il caso della città tedesca di Amburgo. Anche lì si temeva che non ci sarebbero state camere a sufficienza per tutti i potenziali visitatori. Ma i tifosi andavano ad Amburgo per la partita, vedevano il match e poi tornavano nella loro città di partenza il giorno stesso. La stessa cosa accadrà da noi. La gente viaggerà verso la città il giorno della partita per poi tornare indietro dopo il match. Quello che stiamo cercando di fare è offrire alla gente l'esperienza unica di un mondiale africano, in tutti i sensi. Un esempio? Molta gente la mattina della partita potrebbe decidere di prendere parte a un safari fotografico per vedere elefanti e rinoceronti, poi nel pomeriggio godersi il match e dopo la partita, rientrati nella propria città, fare uno splendido barbecue con gli amici. Questa non è una Coppa del Mondo come tutte le altre, ma una Coppa del Mondo africana. Siamo una nazione africana e abbiamo natura, paesaggi, spiagge fantastiche, ma anche città moderne e moderne aree per lo shopping, come a Milano, Londra o qualsiasi altra parte del mondo. E vorremmo che la gente facesse esperienza. Questo è il ministro del turismo del Sudafrica, Martinus van Schalkwyk. Per quanto riguarda nello specifico i trend turistici verso Città del Capo e dintorni, abbiamo raccolto anche l'opinione a Johannesburg di Fiona Buchner, responsabile per l'area europea dell'ente del turismo sudafricano. Sentite. C'è stata e c'è la crisi economica globale, come sappiamo, che ha colpito il settore del turismo in tutto il mondo e anche in Sudafrica ne abbiamo risentito gli effetti lo scorso anno. Ma malgrado questo, il numero di turisti italiani è in aumento, mentre da altri paesi, come ad esempio la Germania, abbiamo avuto un calo. In particolare, il turista italiano ha una qualità preziosa dal nostro punto di vista. Ama muoversi, spostarsi attraverso il paese in auto o in aereo. Un giorno in un parco, l'altro in una zona costiera, l'altro ancora in città a fare shopping. Gli italiani hanno capito che non è complicato girare per il paese. Allora, finora abbiamo sentito le voci istituzionali del governo sudafricano sul tema turismo. Ebbene, però adesso siamo in collegamento con Johannesburg, andiamo a sentire che atmosfera c'è sul campo. Nostra ospite Anna Maria Mocci, guida turistica sudafricana, nata in Italia e che da 37 anni vive a Johannesburg. Benvenuta Anna Maria. Grazie mille, caro Dario. Allora, Anna Maria, come esperta del Sudafrica, subito ti chiedo tre suggerimenti per i turisti che verranno in Sudafrica per la Coppa del Mondo. Tre posti del Sudafrica da non perdere assolutamente. The Kruger Park, naturalmente, e Johannesburg, per quanto sia sempre detta la tremenda Johannesburg, quella del crimine e tutto il resto. Si può visitare benissimo Johannesburg con le dovute precauzioni, naturalmente non la si deve considerare una città italiana o francese o spagnola, si deve considerare una città che il centro non è un centro storico, ma bensì è un centro di business, perciò andare in giro a piedi in centro al centro, vada a vedere il centro storico, non funziona. Perciò bisogna fare le proprie, di solito andare sempre in giro con una guida, possibilmente, che sa esattamente dove portarvi, e d'altronde si riesce a capire molto meglio il paese con qualcuno che te lo spiega. Allora, abbiamo detto il Kruger Park, che è splendido e lo confermo per l'avevo visto dal vivo. Johannesburg, il terzo posto da non mancare assolutamente? Cape Town naturalmente, perché è tutto cominciato lì, diciamo, in Sudafrica. È cominciato lì il vecchio Sudafrica, il nuovo Sudafrica è cominciato a Johannesburg, il nuovo Sudafrica, non da Cape Town, perciò sono quei tre posti veramente da non perdere. Suggerimenti utili per i turisti che arrivano dall'Italia?